speriamo possa rispondere all'idea di nuove visioni, quindi film, autori, registi che altrimenti non vedremmo nelle sale commerciali e che spesso, insomma, attraversano i più grandi festival in tutto il mondo. Quante opere saranno proposte in questa edizione? Dunque, questa edizione avrà più o meno, diciamo, più di 50 film tra corti e lungometraggi. Sarà un'edizione un po' più breve degli anni scorsi, 7 giorni comunque, 7 giorni molto intensi di festival che si apriranno e si chiuderanno con un filo rosso che proviene direttamente dall'ultimo festival di Cannes. Apriamo con il film che ha vinto il premio come miglior documentario al festival di Cannes, cioè La strada dei Samuni di Stefano Savona, e chiudiamo con l'anteprima internazionale di un film che proviene dalla competizione principale di Cannes, che è Un couteau dans le cœur di Ian Gonzalez. Quali sono i luoghi del festival? Il festival ha il suo cuore ai cantieri culturali alla Zisa di Palermo, che è un luogo che ci sta molto a cuore evidentemente e nel quale lavoriamo da molti anni. Questa è la quinta edizione che svolgiamo lì dentro, e lì dentro significa dentro il cinema de Seta, ma anche dentro altri spazi che collaborano e che creano la galassia del festival, cioè la sede siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia, il Goethe Institute, l'Institut Français, e dei nuovi spazi che via via si vanno aprendo a Palermo e dentro i cantieri culturali della Zisa. Quest'anno, per esempio, il Centro Internazionale di Fotografia, che è diretto da Letizia Battaglia, lo Spazio Franco oppure Crazy Plus. Via via il festival si amplia e coinvolge altre realtà. Inoltre tutti i film del concorso saranno visibili in replica anche al cinema Luce Noir, un cinema molto centrale di Palermo accanto al Teatro Massimo. Come è strutturato il festival? È suddiviso in sezioni? Sì, il festival ha due sezioni competitive, una sezione di cortometraggi e una sezione di lungometraggi, che sono giudicate da una giuria internazionale che quest'anno è presieduta da Luciano Barisone e di cui fanno parte anche Eleonora Danco, Carlo Sconceisao, Patricia e Alice Pepper. E poi ci sono delle sezioni non competitive, due di storia del cinema, una si chiama Retrovie Italiane ed è quella che vedrà ospite Gianni Amelio, Emiliano Moreale, insomma, e altri amici, e un'altra si chiama Carte Postale a Serge Danet ed è un omaggio evidentemente a Serge Danet. Poi c'è una sezione che si chiama Panorama Queer, un'altra sezione che si chiama Eterotopie, che è dedicata ogni anno a un paese diverso, e quest'anno è l'anno del Libano. Proprio il 30 maggio inauguriamo a Palazzo Sant'Elia, che è effettivamente un altro dei luoghi del festival di quest'anno, una mostra dedicata alla scena libanese contemporanea e curata da un regista che si chiama Roy Dib, che aveva vinto il nostro concorso di cortometraggi qualche anno fa. L'idea è quella di tenere insieme, insomma, non soltanto proiettare dei film, ma provare a costruire dei progetti che attraversano gli anni. Andrea, rispetto ai lavori che proponete in queste edizioni, quali sono le tematiche più rappresentate? Beh, io penso che appunto lo sguardo sull'adolescenza, oggi attraversa anche le forme di sperimentazione del cinema. Nel concorso di lungometraggi noi vedremo dei film linguisticamente molto liberi e che spesso sono interpretati da giovani e che raccontano storie di giovani. Per questo noi pensiamo che il festival in generale si rivolga a un pubblico evidentemente molto ampio e trasversale, ma che dovrebbe essere frequentato soprattutto dai giovani, che soprattutto a loro potrebbe parlare. Penso al fatto che, per esempio, è curioso come quest'anno le tematiche di genere si intreccino con il genere cinematografico, quindi con il film horror, con il film di serie B, con il film giallo, con il thriller e così via. Avvertiamo quest'aria nel cinema queer contemporaneo, se è possibile riunire in un'unica categoria i vari film che presentiamo. Sì, sì. In chiusura, ci ricordi i riferimenti web per la programmazione? Certo, potete